Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In Italia la dicitura signor Rossi è sinonimo di genericità. Il signor Rossi è l'uomo comune, l'italiano medio. Provate ad andare in Brasile e a nominare a uno dei tanti, tantissimi tifosi della Seleção, la nazionale di calcio carioca, il nome Rossi. Vi guarderanno come se gli aveste ricordato il loro incubo peggiore. Un incubo reale, però, che ha una data ben precisa, 2 luglio 1982. E un luogo, Barcellona, Stadio Sarriá. Si va verso le battute conclusive dell'undicesima edizione dei Mondiali di calcio. Si svolgono in Spagna, in un paese da poco uscito dal franchismo e desideroso di rilanciarsi. A Barcellona, il 2 luglio, va in scena la partita decisiva del secondo girone eliminatorio del torneo. Un gironcino a tre che vale come quarti di finale. Del girone fanno parte l'Argentina, già eliminata, l'Italia e il Brasile. Proprio gli azzurri e i verde-oro si affrontano per stabilire chi andrà in semifinale. Riviviamo l'inizio di quello storico match nella telecronaca di Nando Martellini. Ecco la formazione italiana: Goff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Cotti, Tardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Il Brasile del 1982 è una squadra da sogno, una delle più forti di sempre. Zico, Falcao, Socrates, Cerezo, Junior, Eder. Sono solo due i punti deboli di quell'undici clamoroso: il portiere, Valdir Peres, e il centravanti, Serginho. Due falle clamorose che i verde-oro pagheranno a caro prezzo quella sera. Per rispettare il protocollo, l'arbitro attende le 17:15 esatte. 17:15, è l'ora precisa in cui per i brasiliani quella che pensavano potesse essere un'autostrada verso il paradiso del titolo mondiale si trasforma nell'inferno. Ad accompagnarli non c'è Virgilio, ma il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Paolo Rossi. Paolo Rossi. La vita calcistica di Paolo Rossi ha un prima e un dopo. A separarli quei 90 minuti che iniziano alle 17:15 del 2 luglio 1982. Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile. Chi è Paolo Rossi prima di quel calcio d'inizio? Gianni Brera una volta disse: «Non avrei mai creduto che una squadra di provincia potesse giocare al calcio come giocò il Lanerossi Vicenza nella stagione 1977-1978». Lanerossi Vicenza è il nome assunto dalla squadra di calcio vicentina nel 1953. È stato il primo caso di sponsorizzazione del calcio italiano. Il Vicenza, in Serie B, quell'anno navigava in cattive acque sul piano economico. Così la Lanerossi, colosso laniero di Schio, decise di rilevare la squadra, saldare i debiti, rinnovare lo stadio e tentare di rilanciare il progetto. Ci riuscì e la squadra l'anno successivo tornò in Serie A. Ci è rimasta per 20 anni, arrivando per ben due volte al sesto posto. Nel 1975, però, retrocede di nuovo nella Serie Cadetta. Vi rimane 2 anni. Nella stagione 1976-77 arriva a Vicenza un giovane calciatore toscano cresciuto nella Juventus e poi passato al Como. Una di quelle giovani promesse che sembrano non esplodere mai. Il suo nome è proprio Paolo Rossi. In Serie B, Rossi segna 21 gol in 36 partite, dando un contributo decisivo alla promozione del Vicenza. Il capolavoro arriva però l'anno successivo, 24 gol in 30 partite. È il Vicenza che incanta Gianni Brera e tutti gli appassionati. Arriva secondo dietro la Juventus, con cui lotta per tutto il campionato. A fine stagione, Rossi, che è in comproprietà con la Juventus, viene acquistato dall'allora presidente del Vicenza, Giussi Farina, lo stesso uomo che farà finire il Milan in Serie B, per la cifra record di 2 miliardi e mezzo. Una cifra esorbitante che provoca scandalo in tutta la federazione e che peserà in maniera determinante sulle casse del team. Intanto, il centravanti, nonostante la giovanissima età, viene convocato in nazionale per i mondiali del 1978 in Argentina. Segna 3 gol in 7 partite, in una squadra che dà spettacolo e conclude al quarto posto. L'anno successivo Rossi si infortuna al ginocchio. Colleziona comunque 15 gol, che non bastano però a evitare al Vicenza una clamorosa retrocessione, un disastro sportivo cui si aggiunge il rosso dei conti della società. Rossi deve essere venduto. Si fa avanti solo il Perugia. In Umbria gioca la stagione 79-80. Segna 13 gol, ma è la stagione più nera della sua carriera, quella in cui rimane intrappolato in qualcosa di decisamente più grande di lui. Giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B, e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Manfredoni e Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan. Quelli citati dal giovane Emilio Fede, allora volto del TG1, sono solo alcuni dei nomi coinvolti nello scandalo. Domenica 23 marzo 1980, 24esima giornata di campionato, al termine delle partite, la magistratura organizza una retata in piena regola. Le camionette della polizia e le auto della Guardia di Finanza piombano negli stadi e prelevano i giocatori al termine delle partite. È un'immagine che rimane a lungo scolpita nell'opinione pubblica. A fare esplodere la bomba, due commercianti, due sconosciuti, che avevano però contatti con giocatori di primo piano, che assicuravano loro di poter pilotare i risultati delle partite, determinando in questo modo un giro di scommesse clandestine. Tra questi giocatori, molto presto, vengono a galla nomi importanti: Oscar Damiani, Giuseppe Savoldi, Beppe D'Ossena e Paolo Rossi. I tifosi sono sotto shock, soprattutto alla vigilia del campionato europeo che si disputerà quell'anno in Italia. Si parla di radiazione per alcuni giocatori, di maxi squalifiche per altri, di retrocessione per club come Lazio e Milan. L'aspetto giudiziario della vicenda si sgonfia presto. Dal punto di vista penale il fatto non sussiste, ma l'illecito sportivo rimane. E Paolo Rossi, il Pablito dei mondiali argentini del 1978, subisce una pesante squalifica di 2 anni. Salterà gli europei del 1980 e soprattutto sarà costretto a una lunga pausa che rischia di compromettere la sua carriera. Nel 1980 inoltre vengono riaperte le frontiere, cioè i giocatori stranieri possono essere nuovamente ingaggiati dai club italiani. Arrivano in Italia stelle di prima grandezza. Ci sono tutte le condizioni perché Paolo Rossi cada nel dimenticatoio. Rossi sta completamente fermo per un anno. Poi, nella primavera del 1981, la Juventus, squadra in cui era cresciuto, decide di ingaggiarlo, nonostante risulti inutilizzabile ancora per un anno. Gli dà in questo modo la possibilità di allenarsi. La sua squalifica termina nell'aprile del 1982. Rossi riesce a disputare appena 3 gare di campionato e segna un gol all'Udinese, evidenziando però una condizione fisica assai precaria. Nonostante questo, arriva la sorpresa. Rossi viene convocato in nazionale per il Mondiale spagnolo del 1982. Una scelta che lascia perplessi i media, che solleva un vespaio di polemiche. Una decisione però che gli cambia la vita e la carriera. Dietro questa scelta, un uomo, il CT della nazionale, Enzo Bearzot. Enzo Bearzot è il nostro secondo personaggio di oggi. Scopriamo insieme chi è. Enzo Bearzot, friulano doc, nasce da Jelo del Friuli il 26 settembre 1927. Come la maggior parte degli allenatori, Bearzot vive una prima carriera da calciatore. È un centrocampista difensivo dalle grandi doti atletiche. Disputa 251 partite in Serie A, con le maglie dell'Inter e del Torino, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Vanta anche una presenza in nazionale, nel 1955. La sua carriera da allenatore invece inizia nel 1964, nelle giovanili del Torino. Nella squadra granata fa anche un'esperienza come assistente allenatore, di Nereo Rocco prima e di Edmondo Fabbri poi. La prima panchina vera arriva nel 1968 al Prato, in Serie C. Da Prato a Coverciano la strada è breve. Così Berzot entra presto nell'ambiente della federazione. Il primo impiego arriva come CT della nazionale Under 23. Poi diventa assistente di Valcareggi nei controversi mondiali del 1974. Infine la sua ascesa si conclude nel 1975, quando insieme a Fulvio Bernardini diventa CT della nazionale maggiore. La nazionale che rileva Berzot è in una situazione estremamente delicata. È finita la generazione dei Mazzola, dei Rivera, dei Riva. Il ricambio non sembra soddisfare la gente. La prima amichevole dell'era Berzot è contro la Bulgaria. Un brutto spettacolo, in cui il pubblico reagisce in questo modo. E con la fischia alla fine, una partita che termina per 0-0. E il commento sonoro che ascoltate, credo che sia il contrappunto più degno per quello che abbiamo visto, molte cose da dimenticare. Dico, possiamo andare avanti con questa squadra di Brocchi? Volevo dire, un giocatore come Rivera, Mazzola e Martere che non lo fanno mai giocare, mi spiego il perché? Da cambiare! Secondo me questa nazionale è un controsenso. Il lavoro di ricostruzione è lento e difficile, ma Berzot, come conferma Bruno Pizzul, è l'uomo giusto per questa complessa operazione. Berzot è un uomo che conosce perfettamente il calcio, è un uomo anche che ha un background personale e culturale molto molto buono. Il tandem con Bernardini dura fino al 1977 senza grandi risultati. La qualificazione all'Europeo del 1976, ad esempio, non viene centrata. Dall'anno successivo, quindi, Berzot diventa unico titolare della panchina azzurra e i risultati iniziano ad arrivare. Argentina, 1978. Il primo mondiale con Enzo Berzot in panchina. Il primo contatto tra il CT e Paolo Rossi. Il giovanissimo bomber del Vicenza viene inserito dal tecnico friulano nella lista dei 22 azzurri all'interno di un gruppo che vede predominanti i blocchi di Juventus e Torino, come conferma l'attaccante di quella nazionale, Roberto Bettega. Quella nazionale era composta da 9 juventini, quella che andò in Argentina, e 7-8 del Torino. Erano i due grandi blocchi che erano sicuramente i migliori in quegli anni nel campionato nostro, e quindi era una squadra che portava gli automatismi del gruppo immediatamente in squadra. L'Italia arriva in Argentina sorretta dal ritrovato entusiasmo dei suoi tifosi. Il girone di qualificazione, infatti, ha visto gli azzurri imporsi sull'Inghilterra e ricominciare a proporre un buon gioco. La prima amichevole in terra argentina, però, è uno scialbo 0-0 con la Jugoslavia, che riporta le critiche e le polemiche a mille. La partita d'esordio è contro la Francia. Zoff, Gentile, Caprini, Benetti, Bellugi, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Antonioni e Bettega. Berzot butta subito nella mischia Paolo Rossi. L'attaccante toscano del Vicenza ha solo 21 anni e insieme a Roberto Bettega è chiamato a sorreggere l'attacco azzurro. È l'inizio di un sodalizio mondiale, quello tra Berzot e Rossi, destinato a scrivere alcune delle pagine più belle della storia azzurra ai mondiali. Ricorda quell'esordio a sorpresa lo stesso Paolo Rossi. Berzot ha deciso di mettermi in squadra per un po', forse perché spinto dal coso, un po' per il fatto che in quel periodo Graziani, che era il centravanti titolare, non era in grandissima condizione, quindi ha ritenuto opportuno in quel particolare momento mettere delle forze fresche. Infatti fumo io e Cabrini le novità del 78, che eravamo i due ragazzi più giovani. In quel match Rossi ripaga subito la fiducia accordatagli. Rossi! L'Italia vince 2-1 con la Francia e inizia una straordinaria galoppata nel girone. Batte 3-1 l'Ungheria con Rossi ancora a segno e soprattutto 1-0 i padroni di casa dell'Argentina con rete di Roberto Bettega. Rossi nel girone dei quarti di finale castigherà anche l'Austria. Poi gli azzurri si arrenderanno all'Olanda e finiranno quarti nel torneo dopo aver perso la finalina per il terzo posto contro il Brasile. Il mondiale lancia definitivamente Paolo Rossi e fuga buona parte delle perplessità su Enzo Bearzot. L'incrocio dei loro destini che fa decollare la carriera di entrambi è destinato a riproporsi. Tra poco a Destini Incrociati. Ecco, ci siamo. Ci sentite da lì? In questo sfondo infinito siamo le ombre impressioniste. Eppure noi qui guidiamo macchine italiane e vino e sigarette abbiamo e amori tanti. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo le vicende intrecciate di Paolo Rossi e di Enzo Bearzot. Le loro carriere si incontrano per la prima volta nel 1978, quando Bearzot porta al mondiale argentino l'attaccante del Vicenza, allora giovanissimo. Contro ogni previsione, Bearzot lo butta subito nella mischia e Rossi lo ripaga con 3 reti. Sembra nato un fenomeno. Lo scandalo del calcio scommesse tiene lontano Rossi dai campi di gioco per ben 2 anni e gli impedisce di partecipare al campionato europeo del 1980, che si disputa proprio in Italia. Nel torneo continentale, la nazionale di Bearzot ottiene un deludente 4º posto. Il mondo del calcio è ancora ferito dallo scandalo scommesse e i tifosi sono sempre più freddi. Un vago scetticismo riprende a circondare gli azzurri sulla strada verso il mondiale spagnolo del 1982. Il girone di qualificazione viene superato agevolmente, come ricorda Dino Zoff, portiere della nazionale. La squadra si era consolidata, era quella del 78, con qualche inserimento, però il gruppo squadra era quello, quindi direi che eravamo fiduciosi di far bene. Meno fiduciosi sono i tifosi, come conferma uno dei tanti sondaggi televisivi effettuati alla vigilia del mondiale. Vediamo che cosa, qual è il giudizio degli italiani sul nostro commissario tecnico. Positivo 29%, negativo 17%. Aveva dei rapporti con la stampa non buoni e di conseguenza non era considerato particolarmente bene. Le ultime amichevoli prima del mondiale rendono ancora più netto lo scetticismo di tifosi e stampa, come ricorda il giornalista Alberto Cerruti. No, il pessimismo era diffusissimo. Io posso citare un caso personale: non ho potuto andare al matrimonio di mia sorella, che si è sposata alla vigilia della finale. Quando qualche mese prima mi chiese la data, io dissi: ma sì, tranquilla, sono già tornato da 10 giorni, lo puoi fare anche al 25 di giugno. Quindi nessuno di noi credeva nella nazionale, questa è la verità, perché i risultati ultimi erano negativi, perché c'era un clima di grande tensione. Una delle scelte più difficili da digerire per la stampa riguarda la convocazione di Paolo Rossi. Pablito ha giocato solo 3 partite negli ultimi 2 anni a causa della squalifica per lo scandalo delle scommesse. Eppure Bearzot, contro tutto e contro tutti, decide di convocarlo e di mandarlo in campo da subito, titolare. L'esordio è contro la Polonia di Zbigniew Boniek. Arrivavo da 2 anni di squalifica, avevo giocato solo alcune partite, per cui riprendere, come dire, il ritmo della gara, rientrare mentalmente dentro le partite era molto difficile. E Rossi in posizione alla destra, lo ferma Janas, che poi però mette in faro laterale. Pessima partita nel secondo tempo. Mentre si fermano i polacchi e la partita finisce così, 0-0. Bellissimo primo tempo, squallida ripresa. La Polonia è l'avversario più duro del girone. Le altre 2 squadre sono Perù e Camerun. Gli azzurri non vanno oltre il pareggio con entrambe le formazioni. Gentile, ecco il fischio finale. È 1-1 fra Italia e Camerun. L'Italia passa al secondo turno senza gloria. 3 partite, 3 pareggi, 2 gol fatti, 2 subiti. Ci si qualifica solo per il rotto della cuffia. Rossi sembra lontanissimo da una forma accettabile. In Italia infuriano le polemiche. Buonasera. Pareggiando con il Camerun in una partita deprimente sul piano del gioco, stucchevole, noiosa, a tratti penosa, l'Italia azzurra si è qualificata per la seconda fase del campionato mondiale di calcio 1982. Stanchi delle polemiche, degli insulti, dello scetticismo dei giornali, degli attacchi che spesso riguardano anche la vita privata dei giocatori, gli azzurri decidono di chiudersi nel silenzio stampa. C'è il pubblico che mi saluta, però sa, dice bravo, hai fatto il silenzio stampa, dico guarda che hai sbagliato tutto. Tutti sono convinti che sia ad onore mio aver fatto il silenzio stampa che io non ho mai fatto. Perché i cacciatori privati che sono imprestati da Nazionale hanno il diritto in certi momenti di dire noi non parliamo più. Io non posso farci niente anche mettendolo di fronte ai pericoli che corrono naturalmente facendo un silenzio stampa. Col risultato che io lavoravo 3 volte tanto perché tutto il lavoro che mi levavano i giocatori me lo assorbivo io, ho capito, ottica e balle. E il pubblico mi dice bravo hai fatto un silenzio stampa. L'avete informato male, io non ho fatto mai un silenzio stampa in vita mia. La squadra decide di fare gruppo, di cementare le proprie convinzioni, isolandosi, tagliando fuori tutto ciò che potrebbe essere fonte di distrazione e di ansia. E trovano la carica giusta. Il girone dei quarti di finale è il più impervio che il destino potesse riservare agli azzurri. Un girone a 3 con l'Argentina di Maradona e con il Brasile più forte di tutti i tempi, quello di Zico, Falcao, Socrates e Junior, per fare solo qualche nome. Le preoccupazioni erano tante perché erano due grandissime squadre e noi considerate dei pezzenti. La prima partita è contro l'Argentina. Si gioca a Barcellona, nel piccolo stadio Sarriá. Su Maradona, temutissimo, viene messo Claudio Gentile. Scelta azzeccatissima, come confermano gli azzurri Cabrini e Tardelli. Fra le caratteristiche di Maradona, sicuramente quello più adatto a marcare Maradona sarebbe stato Gentile. Gentile in quel momento lì era un ottimo marcatore, ma forse spingeva un po' meno di me. La partita inizia. E l'Italia, per la prima volta in quel mondiale, dimostra di essere una grandissima squadra. Gentile annulla Maradona con le buone e talvolta con le cattive. E la nazionale azzurra prende in mano il pallino del gioco. Tardelli segna! L'Italia va in vantaggio con Marco Tardelli. Sono sensazioni enormi che è difficile poter raccontare, le devi vivere, insomma. L'Argentina va sotto, l'Italia può giocare in contropiede e arriva anche il raddoppio. Conti! Cabrini! Gol! Raddoppio di Cabrini! 2-0, risultato imprevedibile alla vigilia. L'Argentina riuscirà ad accorciare le distanze, ma finisce 2-1. Gentile! Ardiles! Ed ecco il fischio finale! L'Italia ha ripetuto il successo di 4 anni fa e ha superato l'Argentina nel primo incontro del secondo turno ai campionati del mondo di Spagna. Si riaccende qualche speranza, ma l'impegno successivo pare proibitivo. Il Brasile ha infatti battuto l'Argentina per 3-1 e per passare bisogna necessariamente sconfiggere i Carioca. Buonasera. Con un piano tattico esemplare, imperniato sulla splendida marcatura del grande Maradona da parte di Gentile, ma soprattutto con una gagliardia fisica e un morale alto, insospettabili dopo le prove di qualificazione, l'Italia azzurra ha realizzato un risultato storico, un risultato sensazionale. Inoltre l'Italia si trova ancora a dover gestire un problema piuttosto grande. Paolo Rossi viene considerato titolare inamovibile da Berzot, ma non è ancora andato in rete e soprattutto sembra in condizioni impresentabili. Sembra bloccato. Nessuno comprende perché rimanga in campo e non gli venga preferito Spillo Altobelli. In ogni caso i brasiliani si sentono praticamente sicuri di vincere. A loro basterebbe addirittura un pareggio. Non hanno fatto i conti, però, proprio con il risveglio di Paolo Rossi. Tra poco, a Destini Incrociati. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare, rosa da servire. ragionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire e da ritrovare. E se c'è una rosa dona di più. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo a Barcellona, il 5 luglio 1982. Nel piccolo stadio di Sarriá si affrontano per il girone del secondo turno della Coppa del Mondo di calcio l'Italia e il favoritissimo Brasile. In quel torrido pomeriggio d'estate si incrociano i destini di Enzo Bearzot, CT della Nazionale, e di Paolo Rossi, attaccante degli Azzurri. Rossi, reduce da 2 anni di squalifica, è stato convocato da Bearzot e schierato sempre fra i titolari. Ma è sempre stato deludente e non è ancora andato in rete. Apparentemente contro ogni logica, Bearzot lo schiera ancora dal primo minuto contro il Brasile, la squadra più forte del mondiale, 13 gol nelle precedenti 4 partite. Ricordano quella scelta Dino Zoff e lo stesso Rossi. Rossi era il nostro punto di forza, Bearzot lo considerava tale. Bearzot ha rappresentato per me forse una delle persone più importanti nella mia carriera e da un punto di vista umano è stato straordinario nei miei confronti, insomma, perché ha sempre creduto nelle mie qualità fino in fondo, anche a dispetto di chi mi voleva fuori nel periodo in cui giustamente forse meritavo di star fuori. Ecco la formazione italiana: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. In uno stadio gremito di tifosi soprattutto brasiliani, pronti a far festa, la partita inizia con Rossi regolarmente in campo e l'attaccante improvvisamente si sblocca. Vai in avanti Cabrini. Cosa importante è che non mi è mancata fra l'altro la fiducia dell'ambiente, la fiducia dei giocatori, dell'allenatore. Questo per me è stato fondamentale, perché non era tanto la condizione fisica che mi mancava quanto una situazione mentale. Fortuna ha voluto che sono arrivato nel momento opportuno. Il Brasile deve rimontare. Il centravanti Serginho, il più scarso dell'11 brasiliano, sbaglia gol a raffica. Pareggia però Socrates. Le certezze brasiliane durano ben poco. Leandro Cerezo. Rossi. E ancora di nuovo in vantaggio. Errore di Junior. Prontamente affrontato da Rossi. Per i brasiliani comincia a materializzarsi un incubo. Quello che credevano essere l'attaccante meno pericoloso degli azzurri ritrova d'un colpo la forma di un tempo e come un condor si aggira per l'area brasiliana pronto a colpire a ogni minimo errore. Il 2-1 nasce proprio da un disimpegno avventato di Junior che Rossi punisce davvero rapace d'area. Il bomber è tornato. E riprendiamo sul 2-1 per gli azzurri. Di nuovo la qualificazione è passata dalla parte nostra. Il primo tempo di Italia-Brasile si è concluso sul 2-1. Nel secondo tempo, il Brasile parte all'assalto. Zoff sembra insuperabile. Nel secondo tempo ero convinto che non mi potessero far gol il Brasile. Falcao fece una grande cosa. Falcao! Dribblò mio compagno, poi fece una finta. Scirea si presentò lì e tirò un tiro di sinistro dal limite. Falcao! Io ero convinto di prenderla. Se non che fu un'impercettibile deviazione di Bergomi con la coscia. Infatti mi ritrovai così con la palla che passò qua. Prendere gol da Falcao di sinistro in quel secondo tempo lì non era possibile. Siamo sul 2-2 e purtroppo paghiamo le occasioni sprecate poco fa. Mancano 20 minuti. Il Brasile con il pareggio è qualificato. Ma i brasiliani non riescono a gestire il risultato e si gettano in avanti. L'Italia li punisce in contropiede. 2-2, 29° minuto del secondo tempo. Sarà la bandierina con... È la tripletta di Pablito. Bearzot vince la sua scommessa 3-2 e mancano 15 minuti alla fine della gara. Gli azzurri resistono all'assalto del Brasile. Zoff para miracolosamente un tiro di Eder. È finita, l'Italia è finita, semifinalista. In Italia iniziano i festeggiamenti. La vittoria è tra le più belle della storia del mondiale. Paolo Rossi diventa l'incubo del Brasile in una giornata che a Rio viene ricordata come la tragedia del Sarriá e accostata per drammaticità alla terribile sconfitta del 1950 nella finale del Mondiale in casa contro l'Uruguay. Sugli spalti di Barcellona i tifosi carioca piangono disperati. Rossi invece si gode il suo trionfo. Quello che succede dopo è noto ed è diretta conseguenza di quell'impresa. Rossi, ormai definitivamente sbloccato, castiga in semifinale la Polonia con una doppietta. Gol! C'è stata una deviazione di Rossi. Di Rossi sul calcio di punizione di Antonioni. L'Italia vola in finale a Madrid, dove dopo un primo tempo complesso travolge la Germania. Il primo gol è sempre di Rossi. Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Poi segnano Tardelli e Altobelli. È l'11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo per la terza volta. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Sugli spalti, il presidente Pertini gioisce sornione e si prepara una storica partita a carte con Bearzot sull'aereo che riporterà gli azzurri in patria. Il CT della Nazionale ha vinto la sua scommessa. Contro tutto e contro tutti, ha creduto in Rossi, l'ha rilanciato e ha trovato il capocannoniere del Mondiale. I gol dell'attaccante della Juventus, in cui nessuno credeva più, gli hanno portato la Coppa e hanno scritto una pagina indimenticabile della storia dello sport italiano. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.